c'è puzza di canne morte. In camera c'è puzza di canne morte. In camera c'è puzza di canne morte. In camera c'è puzza di canne morte. In camera c'è puzza di canne morte. In camera c'è puzza, in camera c'è puzza. In camera di Pino. Ho contattato Vale per entrare in istantanea. Può darmi una mano, la mia voce ancora è strana. Ho passato tempo a fare demo che non caga nessuno e che nessuno mi paga. Mi son detto da domani qualche cosa cambia. Vedo più rosso del mio conto in banca. Ho il control self di un maestro zen. Quando faccio scivolare le mani come Lupin. Ten ten. È un babbo con gli occhi a spillo dei cartoni francesi. Ben ben. Certi galli li vorrei vedere stesi, strangolati dalla catenina a cui si sono appesi. Quella notte al mio collo tirato più che ad un pollo. Quella notte me la sono fatta sotto. Sul serio? Me la sono fatta sotto. Quella notte sono tornata a casa con il naso rotto e le mutande sporche. In camera c'è puzza di canne morte. La tipa che è russa perciò non si dorme. In un anno abbiamo cambiato tetto 3 volte. Mi chiedo perché, chiedo perché. La mia vita è tale quale quando giro in motorino. Ogni strada che prendo, prendo pure ogni tombino. Vino viene dalle serate di birra e vino mischiate e dalle mega sboccate dell'intestino. 17 prime canne, prime fighe, prime rime, prime tette, prime lingua, 9 dalle cugine, prime pippe sotto le lenzuola, giornalette pila. Non venivo nemmeno, ne facevo 10 di fila. Vengo da un posto di sconvolte a contagio, dopo ogni realtà è quasi tutto a montaggio. Vengo da un posto dove è sacro il 1° maggio, tutti sui prati in tenda inizia massacro. In camera c'è puzza di canne morte. Il cane si spulcia perciò non si dorme. In un anno abbiamo cambiato tetto 3 volte. Mi chiedo perché, ma chi cazzo è sto binè? Vino oppure binello, agli inizi flash MC fette ne bevevo di tavernello. Il mio migliore amico fa Beccio di soprannome dopo un cartone di Bazzo. Suono di gestione. Il mio migliore amico la nomina da Beccio. Per le cubane timbrate poteva anche finire peggio. Poteva finire come l'italiano sfigato che dopo un viaggio a Cuba torna, ma stavolta accompagnato. L'italiano innamorato, la sua vena era un sogno. Lei l'ha sposato per il permesso di soggiorno. Poveretta, è scappata via. Lui non tiene più le tasche piene, non la mantiene a dovere. È scappata via, ma col cuore non ci si gioca. Voleva vita loca, corvette e la coca. Ti mando un beso. L'aveva conosciuta quando a paca chiedeva 5 peso. Vengo da un posto di sconvolte a contagio, dove ogni realtà è quasi tutto un montaggio. Dove c'è noia e il 1° giro è sacro. Tutti combino quando inizia il massacro. In camera c'è puzza di canne morte. La tipa che è russa perciò non si dorme. In un anno abbiamo cambiato tetto 3 volte. Mi chiedo perché, oh, ma perché, perché, oh. In camera c'è puzza di canne morte. Il cane si spulcia perciò non si dorme. In un anno abbiamo cambiato tetto 3 volte, mi chiedo perché. Ma chi cazzo è Binè?